karmica e si gira. Con la vita giù sulle lenzuola, mentre allarga quella macchia nera. Ma quale orrore, non è sangue, è Coca-Cola. Sembra dentro al personaggio, ma poi si riprende e si riprova. Pure festeggiate.